Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. E il cinema esiste perché la vita non è mai come vorremmo che fosse? No, il cinema è un sogno. Il cinema è una fantasia. Il cinema è un grande giocattolo nelle mani degli adulti. Se la domanda è marzulliana, la risposta è impeccabile. A pronunciarla è Dino De Laurentiis, produttore di capolavori assoluti tra cui Le notti di Cabiria di Federico Fellini e Velluto Blu di David Lynch, tanto per citare giusto un paio di titoli spalmati su 60 anni di onorata carriera. Produttore, si diceva, non regista, né tantomeno attore. De Laurentiis sapeva bene che l'apporto delle figure che agiscono nell'ombra, al di fuori della luce dei riflettori, è fondamentale per la buona riuscita di un prodotto. Che si tratti di un riflesso della cosiddetta politique des auteurs o di semplice pigrizia, è abitudine diffusa considerare i film come frutto dell'ingegno creativo di un unico individuo, il regista. In realtà, proprio il film, più di qualsiasi altra opera d'arte, scaturisce da un lavoro collettivo nel quale i contributi artigianali di molte persone sono importanti tanto quanto il lavoro del regista. Oggi Destini Incrociati esplora l'universo di questi collaboratori spesso ignorati, senza i quali con tutta probabilità non avremmo mai avuto la chance di ridere, piangere, palpitare, commuoverci come solo al cinema siamo capaci di fare. Che cosa sarebbe un grandioso film in costume, magari un drammone di stampo ottocentesco, senza un bravo costumista? E cosa dire di un film di fantascienza senza le tinte livide, cupe e metalliche pensate da un abile direttore della fotografia? A proposito di fantasie su altri mondi, pensate che saremmo mai riusciti ad appassionarci così tanto alla causa di un extraterrestre se non fosse stato non tanto per l'uomo che lo ha diretto, ma per colui che lo ha disegnato e costruito? Io ho finito il pupazzo di E.T. esattamente 2 giorni prima dell'inizio delle riprese. Davvero? Sì. Si immagina la mia responsabilità nel caso in cui E.T. non fosse piaciuto? Se non avesse suscitato la commozione della gente? Sarebbe stato un bel problema per tutti. La voce che avete appena sentito è quella di Carlo Rambaldi, pittore e scultore ravennate che all'inizio degli anni Ottanta ha dato vita a una delle figure più amate mai apparse sul grande schermo. Stiamo parlando naturalmente di E.T., l'extraterrestre. Una vera e propria scultura vivente, molto più di un semplice pupazzo o di un qualsiasi oggetto inanimato. E.T. è un personaggio reale a tutti gli effetti. È un membro del cast che non ha nulla da invidiare agli attori in carne ed ossa. Voglio tornare per ricominciare, oh extraterrestre, portami via. Voglio tornare indietro a casa mia, oh extraterrestre, non mi abbandonare. Voglio tornare per ricominciare. Se non fosse stato per le sembianze di E.T. e per il genio dell'uomo che le ha ideate, forse il successo della pellicola di Steven Spielberg non sarebbe stato così straordinario. Figure minori, uomini nell'ombra, artigiani che affiancano con discrezione i monumenti della settima arte che sentiamo nominare ogni giorno. Un altro di questi è senza dubbio il re dello spaghetti western, Sergio Leone. Vi siete mai chiesti cosa sarebbero i suoi film senza le strepitose musiche di Ennio Morricone? A parlarcene è Bruno Damario Battisti, musicista e membro dell'orchestra che ha collaborato alla colonna sonora di Per qualche dollaro in più. L'autore delle colonne sonore italiane era soltanto la musica che si adattava alle immagini e si cercava di creare i sincroni musicali, era molto complicato. Mentre invece con questi film Sergio Leone ha avuto la grande intelligenza di far scrivere la musica a Ennio e di girare successivamente le scene sulla musica. La musica di Morricone non è semplicemente un accompagnamento, ma diventa elemento visuale, addirittura presenza scenica all'interno dell'inquadratura. I suoni non si limitano a sottolineare i feroci scambi di sguardi tipici dei western di Leone, ma li scandiscono, ne dettano i tempi. La melodia smette di essere accessoria, diventa funzionale alla narrazione. Un artigiano dei suoni, Morricone, che ha contribuito in modo sostanziale alla riuscita di svariate pellicole e alla consacrazione definitiva di un genere cinematografico. Morricone, così come Rambaldi, è diventato una leggenda. Ma non tutti i professionisti che mettono le loro abilità al servizio dell'industria del cinema diventano delle celebrità. Molti invece restano per lo più nell'anonimato. Può darsi che il nome del primo protagonista di oggi non vi dica un granché. Eppure il suo talento, a Hollywood, è conteso dai migliori registi su piazza. Come quelle dei suoi illustri predecessori artigiani, le sue abilità sono tutte italiane. Andiamo subito a conoscere Dante Ferretti. Dante Ferretti. Io sono nato a Macerata, per cui marchigiano doc. Sono di origine controllata, sono controllato, ecco sì. Classe 1943, Dante è un piccolo sognatore. E non è poi così difficile sognare se la tua infanzia coincide con gli anni, forse ancora duri, ma già pieni di tante speranze, della fine della Seconda Guerra. Anni certamente difficili, segnati dalle inevitabili asperità che seguono la chiusura di due conflitti e di un ventennio di dittatura fascista. Anni formativi per il giovane Ferretti, che inizia fin da subito a far lavorare la sua fantasia. Dante non è uguale a tutti gli altri ragazzini. Non gli piace prendere a calci il pallone né scorazzare per le strade della sua città in cerca di chissà quali avventure. Lui sa già esattamente dove trovare le avventure che tutti sembrano affannarsi a cercare. Gli basta sprofondare nelle poltrone di velluto e nel quieto, confortante buio di una sala cinematografica. E a Macerata sembra proprio che i cinema non manchino. Quando io stavo lì c'erano tanti cinema, una città che non era una città così grande, il periodo che l'ho lasciato, però c'erano i quattro cinema importanti che era il Cinema d'Italia, il Cinema Corso, Cairoli e lo Sferisterio. Più lo Sferisterio d'inverno c'era una sala piccola, più c'erano le sale parrocchiali, per cui io andavo sempre al cinema. Infatti mio padre non lo sapeva, io gli rubavo, mi appropriavo di qualche soldo dalle sue tasche per poter andare al cinema. Dante si fa le ossa e forgia il suo immaginario cinematografico con i capolavori del periodo classico di Hollywood. Per tutto il corso degli anni 50 ammira con ferrea regolarità settimanale, bisettimanale o addirittura quotidiana i capolavori di registi come John Ford, Lia Kazan, Billy Wilder. Non si limita a subire passivamente il fascino della narrazione e a perdersi nell'inebriante atmosfera da sogno. Lo sguardo di Ferretti, a dire il vero, è già uno sguardo attento, chirurgico, teso a vivisezionare i meccanismi che stanno dietro alla grandiosa macchina del cinema. Venivo a vedere un sacco di film americani e c'era a un certo punto, non mi ricordo se i titoli di coda o di testa se erano tradotti in italiano, però vedevo sempre, mi ricorderò sempre questo nome, scenografia di Al Pereira. Ma che vuol dire scenografia? Un giorno qualcuno mi ha spiegato cosa vuol dire la scenografia. Quel nome così esotico, Al Pereira, che Dante vede apparire ossessivamente sul grande schermo, è quello di un grande scenografo che, fra le altre cose, è stretto collaboratore e uomo di fiducia del maestro del brivido Alfred Hitchcock. Grazie all'assidua frequentazione delle sale, le passioni di Ferretti per il disegno, la pittura, la scultura e l'arte in generale cominciano a prendere una piega. Ad appena 16 anni, il giovane sente l'esigenza di lasciare la città natale per cercare la sua strada altrove. Roma è la meta ideale. Io vorrei tanto fare questo lavoro, però non riuscivo a sapere che tipo di cosa. Allora io ero amico, anche se eravamo di età completa, di Umberto Peschi, grande scultore maceratese, che lavorava una volta a Roma. Allora diceva, ma tu dovresti... Allora dicevo, io vorrei fare il cinema, ma che cosa? Dice, ma tu fai l'istituto d'arte, dovresti fare lo scenografo. Questa è stata una parola magica, per cui è stato il momento in cui ho deciso di fare questo lavoro. La passione per il cinema e quella per l'arte sembrano fondersi magicamente in un'unica parola, scenografia. E questa è la disciplina d'elezione di Dante Ferretti. E questa è la strada che può unire le indiscutibili fascinazioni cinematografiche con il suo gusto per l'invenzione, con la sua ansia di disegnare e plasmare, con il suo innato piglio da artigiano di bottega. Dante è giovanissimo, ma ha già le idee ben chiare in testa. Il mestiere dello scenografo è il lavoro della sua vita e non nutre alcun dubbio. Vuole essere in grado, con le sue stesse mani, di ricreare quella stessa grandiosa magia di cui è stato così spesso spettatore nelle sue frequenti incursioni al cinema. La determinazione non è certo una qualità che manca a Dante Ferretti. Non ha ancora 20 anni, ma ha già capito esattamente cosa vuole fare della sua vita e sta facendo di tutto per perseguire il suo obiettivo. Avere le idee chiare, però, non significa partire dall'alto. Anzi... Innanzitutto io devo dire una cosa. Io quando ho lasciato Macerata la prima volta e volevo fare lo scenografo e sono andato a Roma a studiare all'Accademia di Belle Arti, il primo film che mi hanno offerto come aiuto scenografo era di uno scenografo, tra l'altro nato a Macerata, che era l'architetto Aldo Tomassini Barbarossa, e il mio primo film l'ho fatto ad Ancona, che era un film di pirati con la regia di Paolella. Sembra strano, infatti ho detto, io ho fatto di tutto per lasciare Macerata, mi hanno riportato nel Conero. Dante si fa in quattro per andarsene dalle Marche, non perché non ami la sua terra natia, ma perché sa che la fortuna in campo cinematografico risiede altrove. È vero, l'ironia della sorte lo riconduce sulle coste dell'Adriatico, ma si tratta unicamente di un episodio. Ormai la sua vita e le sue enormi ambizioni si trovano a Roma, la capitale non solo di un paese, ma anche di un'industria, quella cinematografica italiana. Se Roma è il regno, Cinecittà è il suo castello. Dante è un assiduo frequentatore di quel magnifico, enorme complesso di teatri di posa che si trova lungo la via Tuscolana. In quegli edifici, dalla fine degli anni 30 in poi, si è fabbricata una quantità esorbitante di sogni. Ferretti ne respira l'atmosfera inconfondibile. Proprio a Cinecittà gli vengono offerti i suoi primi lavori come collaboratore di scenografi più esperti, anche su set importanti. È proprio in qualità di aiuto scenografo che Dante ha la fortuna di conoscere Federico Fellini in occasione del suo Satyricon. Ma il regista che per primo intuisce davvero le sue potenzialità è un altro grande faro della cinematografia e più in generale dell'arte italiana. Pier Paolo Pasolini. Pasolini è stato quello che ha creduto in me, nel senso, dopo che io ho fatto 3 film come aiuto scenografo, lui è stato quello che ha creduto in me e mi ha offerto per la prima volta Medea, che è stato il mio primo film, e da lì poi, insomma, è cominciata la mia, così, la strada che mi ha portato verso tutti quanti gli altri registi. Lo scenografo marchigiano ha già lavorato con Pasolini in diverse occasioni, sempre come aiuto scenografo. Ha fatto, disfatto, disegnato bozzetti, costruito capanne, rifugi e altre strutture di ogni sorta in Uccellacci e Uccellini, Il Vangelo secondo Matteo ed Edipo Re. È proprio Pasolini ad accorgersi della straordinarietà e dell'eccellenza del lavoro di Ferretti. Tutto quel talento è sprecato se ingabbiato sotto la supervisione di un altro capo scenografo. Dante è perfettamente in grado di farcela con le proprie forze. Ed è con Medea che si mette alla prova. Le riprese vengono effettuate in Turchia e in Siria, ma molti degli ambienti assolati e polverosi del Medio Oriente sono ricostruiti dallo stesso Ferretti nei teatri di posa di Cinecittà. Per la prima volta nei titoli di testa è il suo nome a comparire alla voce scenografo-arredatore. Non solo si tratta di un'enorme soddisfazione, ma anche di un vero e proprio trampolino di lancio. Da quel momento in poi, i grandi registi lo guarderanno con occhi diversi. Io ho fatto il mio ultimo film come aiuto scenografo, è stato il Satyricon di Fellini. E allora, quando io sono tornato dalla Turchia e stavo facendo le scene di Medea a Cinecittà, ho incontrato Fellini che mi ha detto: ah, so che stai facendo questo film, allora dovresti fare con me, dopo che è finito, un film che era Roma, però lo dovresti fare a metà con un altro scenografo. E io gli ho detto: ma io, maestro, quell'epoca ci davamo del lei, veramente io davo del lei, io non posso farlo, mi dispiace, mi chiami fra 10 anni. Ho detto: come chiami fra 10 anni? Dice di no a un Fellini, parlando di se stesso, giocando. Ho detto: sì, purtroppo. Perché? Perché ho detto: sicuramente tutte le cose che possono sbagliare saranno colpa mia, e le cose che vanno bene invece sarà merito di quello con cui tu lavori, con lei lavora da tanto tempo. E allora lui così mi ha detto, ma mi ha guardato così un po' scherzando, ha detto: ma sì, forse non hai torto. Con Medea Ferretti ha fatto il salto. Non ha più intenzione di accettare lavori come aiuto scenografo. Lui è il padrone della scena, anzi della scenografia. E può addirittura permettersi di lasciare sulle spine un maestro del calibro di Fellini. Gli anni 70 lo vedono lavorare alacremente con tutti i nomi eccellenti del cinema italiano, da Pasolini a Elio Petri, da Luigi Comencini a Marco Bellocchio. Ma Fellini, il grande, immenso Fellini, non si è affatto dimenticato di quella promessa. Io stavo facendo un film che era Todo Modo di Elio Petri e ci siamo incontrati al Cinecittà. Lui sta finendo Casanova, io stavo facendo questo film, mi ha detto Dantino, perché lui parlava sempre con diminutivi. Guarda, sono passati 10 anni, e ora che lavori con me. E io ho fatto il primo film che è stato poi con lui, Prova d'orchestra, fino all'ultimo, che La voce della luna, li ho fatti tutti. Prova d'orchestra è un filmetto, secondo la definizione del suo stesso autore, girato in pochissimi ambienti e lungo solo 70 minuti, un'inezia rispetto alle lunghezze abituali delle pellicole felliniane. Eppure quella chiesa sconsacrata dove un'orchestra si esercita assiduamente, urla, strepita e si indigna a colpi di note musicali, è uno degli ambienti più riusciti mai ideati da Ferretti. Una scenografia inerte e vagamente claustrofobica, perfetta per sottintendere la parabola etica e civile che Fellini ha in mente. Il maestro non ha dubbi. Dante Ferretti è un genio e non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare. Ma la carriera di Ferretti è destinata a prendere decisamente il volo. Né lui né Fellini possono immaginare quanto ancora un giovane ragazzo di Macerata possa andare lontano, addirittura al di là dell'oceano. Mi sono sempre detta, cercherò, troverai, mi hanno sempre detto troverai, per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. Destini incrociati. Destini incrociati è a Roma, e più precisamente a Cinecittà, la Hollywood sul Tevere, come è stata scherzosamente ribattezzata. Scherzosamente si fa per dire. Nei teatri di posa che stanno lungo la via Tuscolana, l'industria del cinema italiano ha installato la sua catena di montaggio. È a Cinecittà che si fabbricano i sogni che poi finiscono dritti dritti sul grande schermo. Dante Ferretti è uno degli operai di questa grandiosa catena produttiva, uno degli artigiani che con il loro talento sostanziano il lavoro dei grandi registi. Il suo nome non sarà altisonante, ma il suo ruolo è fondamentale. Gli studi di Cinecittà per lui rappresentano un traguardo grandioso e insieme un punto di partenza esaltante. È una parte della mia vita, io è una parte importante, perlomeno per me. Sarebbe stato per gli altri, non lo so, però insomma, ogni volta che vengo qui a Cinecittà è come ritornare indietro molto con la memoria. Poi la memoria, insomma, con la memoria con Fellini, con Petri, Ferreri, con Pasolini, con tantissimi, adesso magari ne dimentico. Diversi grandi autori si sono innamorati nel corso degli anni del suo lavoro. La collaborazione con il suo scopritore, Pierpaolo Pasolini, ad esempio, prosegue fino alla morte del regista. Dopo aver lavorato anche con Petri, Comencini e Ferreri, nel 1979 Ferretti inizia a lavorare assiduamente con Federico Fellini, uno dei fari che fanno brillare il cinema italiano in tutto il mondo. Pasolini è stato la persona che mi ha dato la grande possibilità di lavorare in Italia. Fellini mi ha dato la possibilità di lavorare nel mondo, cioè, perché voglio dire, erano tutti e due molto apprezzati, tutti molto apprezzati, però Fellini era un mito fuori dall'Italia, voglio dire, era una persona che quando io ho cominciato fuori lui già aveva avuto 5 Oscar, per cui voglio dire, era diciamo che questo è stato l'inizio fuori dall'Italia. È grazie al maestro che Dante Ferretti può iniziare ad allargare il suo orizzonte al di fuori dell'Italia. Sarà proprio all'estero, infatti, che otterrà i suoi più grandi riconoscimenti. Intanto però continua a lavorare in Italia giorno e notte, concentratissimo, focalizzato su diversi progetti contemporaneamente. È curioso pensare come il destino di un uomo tanto dedito al suo lavoro sia sul punto di cambiare da un momento all'altro e stia per farlo non sul posto di lavoro, ma nel corso di una breve vacanza. Già, perché ogni tanto anche Dante Ferretti si concede una pausa, anche se poi finisce sempre a passare tutto il tempo scarabocchiando bozzetti sui tovaglioli di carta o sugli spazi bianchi della settimana enigmistica. Ma la persona che sta per incontrare comprende bene la situazione. Lei di mestiere fa l'arredatrice di interni e non può fare a meno di notare quell'uomo che scarabocchia ossessivamente su qualsiasi pezzo di carta gli capiti a tiro. Lei è alta e bionda. Lui bassino e rotondetto, ma non importa. Il senso estetico che li accomuna è più forte di qualunque caratteristica fisica. Lei si chiama Francesca Lo Schiavo. Francesca Lo Schiavo. Ci siamo conosciuti in vacanza, abbiamo simpatizzato e poi ci siamo rincontrati a Roma. Ho avuto degli obiettivi comuni, questo sì. Obiettivi comuni. Sarebbe a dire che i due, chiacchierando davanti a un bicchiere di vino in vacanza e poi davanti a un altro bicchiere di vino in città, capiscono di condividere molte cose. Le rispettive professioni, ad esempio, sembrano l'una il naturale completamento dell'altra. Tecnicamente io faccio lo scenografo, come in America si chiama, il set production design, per cui fa tutta la parte visuale del film, cioè lo pensa così. Dopodiché Francesca invece fa la set decorator, cioè l'arredamento, la set decorator, per cui lei, io costruisco le scene e lei le arreda tutte quante, per cui il lavoro talmente unito così che dobbiamo anche, niente, non ci parliamo, ormai tanto ci dobbiamo dire sempre di me perché sappiamo perfettamente quello, come quello che dobbiamo fare, come va le cose. Affinità sul piano professionale e anche su quello personale. Francesca sta per diventare la più fidata collaboratrice di Dante, l'unica persona a potersi permettere di condividere i segreti di un uomo abituato ad essere gelosissimo del proprio lavoro. E ne custodirà, a dire il vero, anche il cuore. La sfida di Dante Ferretti si fa ancora più esaltante. Se all'inizio degli anni Ottanta, proprio nel cuore della febbrile attività al fianco di un regista del calibro di Federico Fellini, ha il piacere e la fortuna di incontrare colei che diventerà la donna della sua vita. In tutti i sensi, professionale e sentimentale. Lei è Francesca Lo Schiavo e di mestiere fa l'arredatrice d'interni, la terza professione più gettonata dopo la ballerina e la fotomodella nelle fantasie di tutte le bambine che si rispettino. Anche Francesca Lo Schiavo è stata bambina e anche lei ha giocato per interi pomeriggi con le bambole, le ha vestite, svestite, ha sognato per loro e per se stessa cavalli bianchi, principi azzurri, dimore da favola. Ha sognato tappezzerie ricamate d'oro, copriletti soffici come piume, poltrone intarsiate, lampadari di cristallo e tutta quella serie di pezzi d'arredamento un po' barocchi che piacciono tanto alle bambine che da grandi vorrebbero fare le principesse. È un po' principessa, a dirla tutta, Francesca Lo Schiavo lo è per davvero. La sua famiglia è di origini aristocratiche, anche se ormai i titoli nobiliari non contano più nulla. Crescendo, però, non si sradica in lei quel senso di adorazione nei confronti delle boiserie, dei broccati e più in generale della decorazione di ambienti. Non si limiterà più a vestire e arredare con scrupolo la casa delle sue bambole, ma si cimenterà con ambienti a grandezza naturale. L'incontro con Ferretti, in quest'ottica, si rivela provvidenziale. Partendo naturalmente dalla documentazione del periodo, e ho preparato delle lavagne di carta con tutta la documentazione, fotografie, mobili, eccetera, ambiente per ambiente. Io gli mostravo quello che avevo raccolto e che pensavo, e lui in base a questo mi spiegava quello che lui voleva. Dopo essersi conosciuti e dopo aver scoperto di condividere la passione per due mestieri decisamente affini, Dante e Francesca provano a cimentarsi sul campo. Il primo set sul quale collaborano è quello del film La pelle di Liliana Cavani. I due scoprono di essere fatti l'uno per l'altra anche sul posto di lavoro. Agiscono in sincrono e si sostengono in maniera perfettamente complementare. Il risultato fin da subito è stupefacente. L'importante è che funzionino bene, che le persone quando si siede al cinema, quando si sedono in platea e vedono il film, deve essere catturata dall'immagine, non è solamente la storia degli attori, ma anche tutto quello che è intorno. La sinergia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo dimostra come la ricreazione di un ambiente credibile ed evocativo pesi enormemente nella narrazione di un film. Gli enormi bozzetti preparatori, così pieni di colori e di passione verso il mestiere, costruiscono alla perfezione quello che poi verrà materialmente assemblato sul set. La prima occasione davvero importante per Francesca, la prima per dimostrare al mondo il suo talento, gliela serve su un piatto d'argento il grande Federico Fellini, che intuisce la sua bravura e la mette subito all'opera, insieme a Dante, nel film La nave va. Allora, volete sapere il perché di questo viaggio? È un funerale. Ma come un funerale, direte voi? Eh sì, signore e signori, è un funerale. Tutti questi personaggi famosi sono qui per seguire un funerale. È stata l'ultima volontà esplicitamente espressa nel suo testamento. Cremazione e dispersione delle ceneri alle prime luci dell'alba, al largo dell'isola dove sono nata. Un funerale a bordo di una lussuosa nave da crociera tra candelabri dorati, tovaglie di Fiandra, tappeti persiani, trionfi di gigli a centrotavola. Francesca, ricostruendo negli studi di Cinecittà le sontuose sale della nave, dà il meglio di sé e inizia a conquistarsi la fiducia degli altri addetti ai lavori, oltre a quella dei registi. Nel 1986 Dante la porta con sé sul set de Il nome della rosa, giallo d'ambientazione medioevale, tratto dal celeberrimo romanzo di Umberto Eco. La loro ricostruzione dell'ambiente monastico è impeccabile, così come quella, due anni più tardi, della realtà tardo settecentesca de Le avventure del barone di Münchhausen di Terry Gilliam. Lo scenografo, normalmente, devo dire, deve mettere sullo schermo se fa un film o non teatro, solo deve rappresentare la storia, tutto quello che avviene dietro la storia, l'atmosfera del film, il periodo storico, che sia moderno, che sia appunto di qualche anno prima, centinaia d'anni prima, deve raccontare che la storia, a parte gli attori, la storia, voglio dire, tutto quello che circonda, è un'atmosfera molto importante da fare, ed è importante fare questa storia. Questa atmosfera, quando si ricostruisce, si disegna, si pensa, si disegna, si ricostruisce, oppure si trovano dei posti del vero. Il lavoro di Dante e Francesca è ormai apprezzato da diversi registi di fama mondiale e il lavoro sul set de Le avventure del barone di Münchhausen vale ai due anche la prima di una lunga serie di nomination agli Oscar. È solo questione di tempo prima che uno dei più grandi autori cinematografici della contemporaneità si accorga di loro, li porti con sé in America e non se li lasci più scappare. Oh my love, it's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyon. From the stony